Ci sarà la manifestazione del 24, quando non una di meno scenderà in piazza per il terzo anno di fila. Quest'anno si manifesterà non solo contro la violenza maschile sulle donne, che rimane comunque il punto di partenza iniziale ed essenziale che caratterizza tutto il movimento di non una di meno, ma rivendichiamo anche un'opposizione, un contrasto forte a quelle che sono le misure razziste imposte dal decreto legge Salvini sulla sicurezza, il disegno di legge Pillon che di fatto autorizza una violenza all'interno della famiglia e contro le donne nello specifico, ma anche contro i bambini. E inoltre su questo disegno di legge sono strutturati diversi disegni di legge che non una di meno ha comunque indagato già nella due giorni fatta ad ottobre a Bologna con un'assemblea nazionale. E quindi la rivendicazione della piazza è più ampia, perché si parlerà anche del DEF, e con queste rivendicazioni scendiamo in piazza con una lettura quindi trasversale che non una di meno ha sempre comunque rivendicato in tutti questi anni. E poi ci sarà il 25 novembre un'assemblea nazionale per andare verso lo sciopero dell'8 marzo, che riproponiamo anche quest'anno con chiaramente una chiave diversa rispetto a quelli degli anni scorsi, perché c'è una fase diversa e questo non una di meno l'ha considerato e ne ha preso atto appunto fin da subito, già a ottobre con l'assemblea nazionale di Bologna. E quindi in questa assemblea nazionale di domenica si parlerà soprattutto di sciopero, di pratiche verso lo sciopero, campagne, e rivendicando soprattutto quella che è una strutturazione globale che da sempre ha caratterizzato questo movimento e che secondo me è la sua più grande potenza, il fatto che non siamo solo a Bologna o a Roma o in Italia, ma in tutto il mondo. Sono le argentine, le brasiliane, le polacche, le irlandesi che scendono in piazza costantemente ormai da 3 anni a questa parte, in alcuni posti anche da prima, con un grido di rivendicazione e di affermazione femminista che si sta facendo sentire in tutto il mondo. Tornando all'Italia, tu hai citato prima alcuni provvedimenti di questo governo che si autorappresenta come il governo del cambiamento, ma l'impostazione rimane quindi quella patriarcale. Rimane quella patriarcale e addirittura si intensifica rispetto a questo. Noi appunto, dicevo prima, siamo scese in piazza già dal 2016, ma saremmo potute scendere in piazza anche ben prima, ma nel 2016 non una di meno è scoppiata proprio come movimento. Io a quella manifestazione c'ero e mi sono sentita appunto coinvolta in qualcosa che stava succedendo lì in quel momento preciso, e per questo moltissime ragazze giovani e anche non hanno sentito di prenderne parte, perché certe cose sono esistite, sono sempre esistite, e non una di meno le nota appunto come un'estrinsecazione di quella violenza. Cioè la violenza maschile è l'esempio oggettivo e materiale di qualcosa che in realtà è strutturale all'interno della società. Questo governo sicuramente non cambia nulla rispetto a questo e anzi assolutamente lo intensifica. Citavo prima il decreto legge Salvini sulla sicurezza e l'immigrazione, e mi sembra che sia un esempio abbastanza esemplificativo di quanto stavo dicendo, ma anche il disegno di legge Pillon, dove si va addirittura a favorire quella che è la violenza familiare e imporre una mediazione per il divorzio, che vedrà la parte considerata che esiste più debole, ovvero quella che in genere è rappresentata da una donna che vive all'interno della famiglia. Prendo spunto da un contenuto del comunicato stampa nazionale di non una di meno, che fa riferimento anche alle speculazioni su casi di cronaca, in particolare sto pensando a San Lorenzo, a Desiree, e quando ci sono appunto femminicidi o stupri di gruppo si pone sempre la questione razziale, ma nessuno si sofferma mai che gli autori sono accomunati da semplicemente il fatto di essere uomini, indipendentemente dal colore della pelle che abbiano. Esatto, e questo è il punto. Non una di meno non definisce lo stupratore in quanto nero, bianco o da dove viene, ma in quanto è maschio, ed è questo il fatto che cambia tutto, ed è questo che caratterizza anche la giornata come del 25, come la giornata internazionale della violenza maschile sulle donne. Il problema è che c'è uno stupro da parte di un maschio appunto su una donna. È la posizione specifica del maschio che glielo fa compiere. Un'ultima cosa invece relativa ai pullman, alle possibilità di Non Una di Meno Bologna per andare a Roma. Sì, noi abbiamo organizzato dei pullman, i manifesti si trovano anche in giro nella città e c'è un appello anche su Facebook. I pullman costano andata e ritorno 25 euro e i posti dove prendere i biglietti sono la Biblioteca delle Donne, Ritmo Lento, la BA, TPO, Cassero. Su Facebook basta cercare Non Una di Meno Bologna, la pagina di Non Una di Meno Bologna, scrivere, chiedere informazioni e siamo abbastanza operative da questo punto di vista.